Beh, noi come tutti abbiamo preso atto che l'emergenza Covid sta causando delle ripercussioni importanti a livello economico con l'aggravamento di una recessione che è già grave e per entità supera quella del 2008. E siccome in momenti di crisi possono aumentare delle tendenze aggressive anche di insicurezza nello stesso tempo che portano a discriminare di più chi è diverso, abbiamo ipotizzato che ci possa essere un rischio che in queste circostanze aumentino episodi di discriminazione nei confronti di minoranze, non soltanto quella LGTB ma anche altre minoranze di popolazioni vulnerabili, stranieri, migranti, donne per esempio. Con questa ipotesi in mente abbiamo specificamente guardato la popolazione LGTB che sappiamo subisce già l'impatto di discriminazione, soprattutto la popolazione transgender e quella bisessuale si sa che è sottoposta, ma anche quella lesbica e gay, ma si sa che è sottoposta per una particolare forma di stress che si chiama minority stress, in cui l'effetto della discriminazione provoca maggiore ansia, depressione e ahimè a volte anche un maggior numero di suicidi. Quindi è una popolazione vulnerabile, abbiamo testato la nostra ipotesi andando a vedere uno studio dell'Istituto Nazionale di Statistica vecchio del 2011, ma che è di fatto una delle pochissime rilevazioni di questi temi che abbiamo disponibile ed è uno studio rappresentativo della popolazione perché interessava 8.000 individui e è proprio uno studio pertinente perché durante la recessione, copre la recessione Lehman Brothers del 2008 e abbiamo visto che nelle zone dove c'era maggior impatto della crisi economica, nelle regioni dove c'era maggior crisi, aumentavano delle risposte discriminanti da parte della popolazione intervistata. Le risposte potevano essere: ritiene accettabile avere un collega di lavoro omosessuale? Ecco, in quello studio si vedeva che nelle zone dove c'era maggiore crisi le persone rispondevano più frequentemente no, non è accettabile, oppure ritiene accettabile avere un medico omosessuale? Ecco, dove c'era maggiore crisi i rispondenti ritenevano che per esempio avere un medico gay non andasse bene. Noi abbiamo mandato questo studio diversi mesi fa, già a marzo, e purtroppo, come lei ha potuto notare, la cronaca anche recentemente ha mostrato che effettivamente ci sono stati degli episodi di discriminazione grave o gravissima, purtroppo confermando questo nostro timore. Per questo che pensiamo che sia utile sensibilizzare come si può con questo lavoro di ricerca che è stato fatto con dei colleghi del Dipartimento di Economia di Unimore. Io sono psichiatra, il nostro gruppo è stato coordinato dal dottorando di ricerca Giorgio Mattei e partecipava anche la professoressa Tinder Addabbo, che è ordinario di economia e che è anche impegnata per vari progetti contro le discriminazioni. Ci sono strumenti per ridurre o prevenire questo rischio? Beh, certo, sensibilizzare, no? Fare conoscere il tema credo sia molto importante. Ci sono degli strumenti, il nostro paese si troverà a discutere presto un progetto di legge contro l'omofobia e la transfobia. Certamente anche la tutela legale e i diritti sono fondamentali.